lo annulla la panchina della Juve il gol. Mi deve spiegare chi ha annullato il gol, se è stato Pepe o Giaccherini. Lo voglio spiegato. Sono molto contento e devo ringraziare a tutta la squadra, alla mia famiglia, ai miei amici, a tutti gli sponsor. E già teniamo un altro titolo per la Spagna. Ha perso il Milan, cosa hai pensato? No, non l'ho visto. Ho sentito adesso. Ti dico io che ha perso. Problema di loro. Tutti convocati di Carlo Genta. This morning, and breaking news: the girlfriend of the Paralympian Oscar Pistorius has reportedly been shot dead at his home in Pretoria, in South Africa. But reports in South Africa that Oscar Pistorius, Blade Runner, a huge hero in this country, may have shot his girlfriend at around 4 o'clock this morning, and he has been taken into custody by the police. Olympic sprinter Oscar Pistorius, the man known as the Blade Runner, has accidentally shot and killed his girlfriend. La zona residenziale in cui vive Oscar Pistorius, dove questa notte alle 4 di mattina, e questa è la casa su due piani di cui ci raccontava Andrea Giannini, che è stato il suo preparatore anche in Italia, alle 4 di mattina ci sono stati degli spari ed è morta la fidanzata Riva, la sudafricana modella con cui faceva coppia da novembre. A sparare sembrerebbe proprio essere stato lo stesso Pistorius. Quattro colpi di pistola nella casa dell'atleta. Beh, questo è il giorno di San Valentino, no? A tingere di rosso le rose, nel 29 ci aveva pensato Al Capone, non è il caso di fare dei paralleli, però mi sembra evidente che oggi sia il giorno di San Valentino della cronaca nera per lo sport. Oscar Pistorius, simbolo dello sport mondiale. Oscar Pistorius, l'uomo giaguaro, o come recita in maniera non ironica, ma che oggi fa venire i brividi, una nota pubblicità di un noto marchio che è vicino a questo atleta: The Bullet in the Chamber, la pallottola nella camera. Dunque ci siamo svegliati così, con quattro colpi di pistola, con Oscar Pistorius portato via dalla polizia, incappucciato con un giubbotto grigio. Prime notizie che dicono, insomma, omicidio colposo non poteva essere, perché uno che spara a una persona quattro colpi di pistola, prima ipotesi, scambiata per un ladro la fidanzata che andava a fargli una sorpresa. Poi via via, con il passare più che delle ore, dei minuti, il capo di imputazione è cambiato ed è divenuto agghiacciante. Ci colleghiamo con il Sudafrica, dove c'è Lorenzo Simoncelli. Ciao Lorenzo. Buongiorno, ciao. Dunque adesso si parla di omicidio volontario. Sì, adesso si parla appunto di omicidio volontario. Ci sono stati appunto dei grossi sviluppi negli ultimi minuti. E la prima notizia che vi posso dare è che il primo processo, qua è una sorta appunto di processo per direttissima, che verrà fatto appunto dalla Corte di Pretoria a Oscar Pistorius, avverrà domani mattina alle ore 9 sudafricane, quindi alle 8 italiane. Quindi questa è la prima grossa novità, questo per un duplice motivo. Il primo è perché appunto gli inquirenti stanno indagando, soprattutto cercando di capire qualcosa di più da parte dei vicini di Oscar Pistorius, che a quanto pare hanno sentito, diciamo, i primi schiamazzi, ma anche forme di colluttazione. Si parla intorno alle 2-3 del mattino, quindi due ore prima dell'ora dell'omicidio. Questo quindi andrebbe appunto in contrasto con la tesi di Pistorius, che continua ad affermare appunto che alle 4-5 del mattino, ora sudafricana, ha sentito appunto dei rumori nel suo appartamento e appunto insospettitosi di un ladro ha sparato. Questa è la notizia degli ultimissimi minuti. Sì, la notizia degli ultimissimi minuti è questa. Domani mattina, hai detto, comparirà comunque davanti ai giudici per provare a confutare questa accusa pesantissima, perché comunque era difficile, onestamente, Lorenzo, credere alla versione, ed è difficile credere alla versione di Pistorius, svegliato alle 4 del mattino dalla fidanzata, questo scende dal letto e spara quattro colpi, mi sembra comunque qualcosa di appunto difficile da credere fin dal primo momento. Allora, come puoi immaginare, Oscar Pistorius è una figura chiave nel panorama sudafricano, è un idolo per tutto appunto quello che ha rappresentato e rappresenta tuttora per lo sport sudafricano. Quindi diciamo che all'uscita di questa notizia, appunto nelle primissime ore della giornata, sono subentrate subito una serie di speculazioni. Quello su cui dobbiamo considerare è il contesto sudafricano. Sudafrica è uno dei paesi al mondo con il più alto tasso di delinquenza, sì. E di delinquenza, di rapine e furti in casa, quindi è abbastanza comune che soprattutto in quella zona, nella zona dove vive Pretorius, a est di Pretoria, è frequente appunto che gli abitanti di queste ville di lusso abbiano, diciamo, delle armi da difesa, quindi pistole, sì. Che tra l'altro appunto sono ammesse dalla legge sudafricana. Quindi questo è un qualcosa che va considerato. Di certo la tesi di Pistorius, diciamo che fin dai primi minuti ha lasciato qualche dubbio negli inquirenti. Non... Purtroppo è caduta la linea con il Sudafrica. Io ringrazio Lorenzo Simoncelli, ma mi sembra chiarissimo il quadro che si va delineando, che quadro agghiacciante onestamente, che si va delineando laggiù a Pretoria nei confronti, ripeto, di uno dei simboli dello sport mondiale. Sono curioso di sentire anche voi su questa vicenda. 800 24 00 24, numero verde, ma poi ce n'è un'altra di cui parleremo, perché non è l'unico fatto di cronaca, di cronacaccia avvenuto oggi. Ce n'è uno molto più vicino a noi, per fortuna molto meno scioccante e cruento, che è quello relativo all'arresto di Massimo Cellino per la vicenda di quel dannato stadio di Is Arenas. La zona residenziale in cui vive Oscar Pistorius, dove questa notte alle 4 di mattina, e questa è la casa su due piani di cui ci raccontava Andrea Giannini, che è stato il suo preparatore anche in Italia, alle 4 di mattina ci sono stati degli spari ed è morta la fidanzata Riva, la sudafricana modella con cui faceva coppia da novembre. A sparare sembrerebbe proprio essere stato lo stesso Pistorius. Quattro colpi di pistola nella casa dell'atleta. Un collega, un amico che conoscete bene e che conosce bene soprattutto Oscar Pistorius e che immagino stia vivendo un giorno di shock molto più di tutti noi. Claudio Arrigoni, buongiorno. Buongiorno, sì, non è effettivamente un gran bel giorno, sì. Credo che tutti si rimane sconvolti, poi per chi conosceva Oscar sicuramente la tristezza è ancora maggiore, ma naturalmente poi la tristezza per questa ragazza bellissima, dolcissima, come raccontano le sue amiche, morta questa notte. Sì, e come racconti tu anche sul Corriere della Sera. Sì. Scrivendo praticamente in presa diretta, quando ancora probabilmente girava quella versione abbastanza incredibile, no? Di un Pistorius che spara quattro colpi per errore. Sì, oggi, adesso stanno uscendo queste notizie in cui la polizia appunto è accusato di omicidio, naturalmente quello è tutto da seguire. Quello che rimane è la tristezza per due famiglie che sono completamente distrutte, perché chiaramente la famiglia di questa ragazza, la famiglia Pistorius, e rimane anche, io ne ho scritto proprio come dicevi su Invisibili, sul blog del Corriere della Sera, anche la tristezza per quello che nel mondo ha significato Oscar Pistorius, e bisogna parlarne al di là del fatto di cronaca, naturalmente, o partendo proprio dal fatto di cronaca, da quello che ha significato nel mondo Oscar Pistorius, e che non sarà più così, cioè nulla sarà più come prima. Quello che ha fatto Pistorius in questi meno di 10 anni per la disabilità e per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, non lo hanno fatto decine di anni di riflessioni, di convegni, di parole. Quindi anche questo sicuramente è un aspetto che bisogna tenere in considerazione, certo. Oltre alla tristezza. Certo. Della vicenda tout court. Claudio, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi vorrei chiudere con te il discorso facendoti una domanda: ma cosa può capitare nel cervello di un ragazzo, di uno sprinter, di un ragazzo sorridente, di un ragazzo che aveva, come ricordi tu, twittato foto di bambini da aiutare con una fondazione. Cosa può succedere? Strade? But reports in South Africa that Oscar Pistorius, Blade Runner, a huge hero in this country, may have shot his girlfriend at around 4 o'clock this morning, and he has been taken into custody by the police. Tutti convocati. Claudio Arrigoni, ma Pistorius rimanda l'immagine, almeno per chi non lo conosce come me personalmente, di un ragazzo molto equilibrato, molto, molto duro, agonisticamente molto duro, molto determinato. Non ti aspetti una cosa così? No, non te l'aspetti, perché l'immagine di Pistorius è l'immagine di un ragazzo che sorride, e che sorride anche alle avversità della vita. Come tutti i ragazzi, però, poi quando magari scavi un po' e lo conosci un po' meglio, come tutti i ragazzi, non è un supereroe. Sì. Oscar è una persona che ha i suoi momenti bellissimi e straordinari, e sono quelli che conosciamo tutti, e ha i suoi momenti di cadute, e di cadute anche qualche volta su cui forse colpevolmente anche noi abbiamo sorvolato, noi dico magari o che lo conoscevamo, che comunque ne abbiamo scritto e parlato. Nei mesi scorsi qualche cosa era già capitata, poi magari spiegabile, no? Ma qualche lite con altri che magari erano vicini alla sua fidanzata, qualche denuncia c'è stata in passato. Di qualche, ma questa è cosa nota, non sto dicendo cose che non sono note, di qualche ragazza che aveva subito qualche molestia da lui, e poi ritrattate, poi spiegate, non si capiscono mai naturalmente poi tutto questo. Quel che è vero è che qualche eccesso ce l'aveva, lui amava correre in macchina, amava correre in auto, qualche volta magari in qualche festa si lasciava un po' andare, ecco, diciamo così, ma sai, sono cose che capitano a ragazzi come lui, ragazzi di 20 anni e poco più, e quindi magari uno poi non si aspetta questo. Certo, rileggendolo, rivedendo questi fatti passati con quello che è successo oggi, qualche pensiero ti viene. Credo che bisogna... Non sia il momento poi di giudicare così, ecco. Sì. Il primo pensiero che mi viene su Oscar è quello che io ho messo su Invisibili, ed è il pensiero che una persona che è stato un idolo, davvero nel vero senso della parola, per tanti bambini e per tante persone, ma io mi sono riferito ai bambini perché sono quelli che colpiscono di più, con disabilità, che oggi si trasforma in una persona che è stata capace di uccidere. E questa è la cosa che mi sconvolge di più, sinceramente, certo. Oltre naturalmente all'amicizia che avevo. Io ho visto Oscar quando era proprio lui un ragazzino, aveva 17 anni, aveva i brufoli, aveva l'apparecchio ai denti, quindi lo conosco da tanto, tanto, tanto, e se posso dire di essergli amico. E quindi mi sconvolge naturalmente dal punto di vista personale, ma dall'altro punto di vista mi sconvolge il fatto che nulla sarà più come prima, anche parlando di disabilità. Grazie Claudio. Un abbraccio, un abbraccio a voi. Grazie davvero a Claudio Arrigoni. 800 24 00 24, naturalmente, numero verde per intervenire in questo giorno tutto sommato così strano, così brutto, così scioccante, torno a ripeterlo, 800240024. Ma c'è un altro fatto, prima di cominciare a parlare con gli ascoltatori, così completiamo il quadro di questo dannato San Valentino, dannato per lo sport naturalmente. C'è un altro fatto, che è quello dell'arresto di Cellino. Graziano da Macerata, primo che interviene oggi, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Cagliari. Da Cagliari? Chiamo proprio da Cagliari, sì, buongiorno. Salve. Non so, siamo ai titoli di coda. Io credo che sportivamente, ben prima dei fatti di oggi, almeno noi che siamo intorno alla squadra, avvertivamo qualcosa, si avvertiva qualcosa che non girava bene. Siamo da maggio che facciamo gli zingari in giro per l'Italia, la questione dello stadio oggi è esplosa nel modo più devastante, sì. Un'amministrazione che ci offre uno stadio per una recinzione o per un muretto spostato di 50 centimetri, io questo non lo so, però insomma, mi sembra veramente inverosimile per il capo di imputazione. Noi stiamo leggendo qua in diretta, peculato, falso ideologico, il rischio di inquinamento delle prove. Non so, io non ho parole, mi scuso con tutti i tifosi di calcio d'Italia, ma cioè non... No, ma lei ha poco, Graziano, lei ha poco da scusarsi, semmai, e se il caso, sarà qualcun altro a doversi scusare, oppure qualcun altro a dover giudicare quello che è successo. Vediamo di far chiarezza in questa vicenda, in questa mattinata. Road to Nowhere è il titolo di questa canzone, sulle cui note saluto Francesco Pinna, collega della Nuova Sardegna. Ciao Francesco. Ciao Carlo. Allora, trovate ai telespettatori, ai ascoltatori. Allora, la storia dello stadio di Cagliari prosegue con il rumore delle manette. Il sindaco di Quarto Contini, l'assessore ai lavori pubblici Liliu e soprattutto il presidente del Cagliari Massimo Cellino. Disegnami i contorni di questa storia, dimmi che cosa è successo. Ma l'origine di tutto è il conflitto tra Cellino probabilmente e gli amministratori comunali di Cagliari sulla vicenda del Sant'Elia. Come tu sai, il Cagliari non ha più giocato allo stadio Sant'Elia perché il presidente Cellino voleva costruire uno stadio nuovo nel comune di Elmas, a fianco alla pista dove atterrano gli aerei per Cagliari, e questa vicenda si è interrotta per motivi logistici. Quindi nel maggio dello scorso anno lui ha stilato una convenzione con il comune di Quartu, che è un comune vicino a Cagliari, per realizzare uno stadio nuovo dove poter far giocare il Cagliari nella stagione attualmente in corso. Le procedure per la realizzazione di questo stadio sono state evidentemente accelerate, sono andate secondo l'inchiesta che sta emergendo fuori dalle regole. Sì. Quindi l'origine di tutto è questa. Oggi il colpo di scena arriva a 2 mesi di distanza dai primi arresti, perché l'inchiesta sulla realizzazione dello stadio aveva portato in carcere due funzionari del comune di Quartu e un imprenditore che aveva realizzato i lavori. E sono ancora attualmente ancora agli arresti domiciliari, ma si è ipotizzato già da allora che l'inchiesta avrebbe avuto degli sviluppi, e stamane questo colpo di scena. Si parla di pressioni dello stesso Cellino, con intercettazioni telefoniche nei confronti di un dirigente del comune di Quartu, Pierpaolo Gessa. Esatto, che è uno dei due arrestati. Gessa e Masala, sono i due funzionari del comune che probabilmente nelle loro dichiarazioni rilasciate ai magistrati durante questi 2 mesi di detenzione sono emersi gli elementi che hanno spinto il magistrato a fare. Ecco, l'arresto per tentato peculato è forse può essere letto dal punto di vista giudiziario come una forzatura, però la precisazione che la magistratura ha dato di possibile inquinamento delle prove, come citavi tu, e dalle intercettazioni questo emerge, avrebbe accelerato questa decisione degli arresti di stamane. Sì, e comunque una vicenda che ha scosso, adesso al di là dell'aspetto puramente giudiziario, cioè emergeranno pressioni o illeciti, questo insomma lo vedremo. Poi, dalle motivazioni. C'è però al fondo una una vicenda tormentata che ha abbastanza scioccato gli sportivi della Sardegna, perché è l'abbandono dello stadio di Sant'Elia, che è lo stadio costruito per lo scudetto del 70, e il fascino di questa opera ha già creato mille polemiche. Cellino, che è un uomo navigato di questo mondo, è presidente del Cagliari dal 92, quindi ha superato i 20 anni, e ha dimostrato dal punto di vista sportivo anche di avere delle grandi intuizioni con giocatori acquisti, certo, e con mantenendo la squadra in sé, ha probabilmente questo desiderio di avere uno stadio tutto suo lo ha portato a commettere probabilmente qualche errore, mi sembra di capire. Grazie Francesco, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a Francesco Pinna della Nuova Sardegna. A commettere qualche errore, la voglia di costruire uno stadio nuovo, di avere uno stadio di proprietà, dovrebbe essere non solo legittima, dovrebbe essere incoraggiata in questo paese in cui gli stadi sono monumenti al nulla, gli stadi sono monumenti al passato ormai superati. È chiaro che da lì dal desiderio di modernità o comunque di essere contemporanei, perché non si tratta di modernità ma di essere contemporanei nel mondo del calcio, di lì alle accuse di peculato, a intercettazioni telefoniche che dicono questo Jess, ho ricevuto anche telefonate nel cuore della notte da Cellino che avrebbe minacciato, me l'avrebbe fatta pagare personalmente se non fossero arrivate le recinzioni previste per lo stadio di Is Arenas. Ecco, tutto questo non credo che faccia parte della contemporaneità del panorama europeo, mondiale, della costruzione di nuovi impianti. Tutti convocati. Allora, un'icona dello sport mondiale, Oscar Pistorius, in carcere con l'accusa pesantissima di omicidio volontario a colpi di pistola della fidanzata, avvenuto questa notte a Pretoria. Un presidente di una squadra italiana di Serie A, e cioè Massimo Cellino, nel carcere di Buon Cammino per la vicenda dello stadio di Is Arenas. Le accuse, ripeto, secondo le prime ricostruzioni, tentato peculato e falso ideologico, accusa che sarebbe legata all'utilizzo di parte dei soldi destinati al piano integrato d'area per la costruzione dell'impianto della società. Si legge di intercettazioni, di pressioni, non so quanto minacciose, certamente pressioni di Cellino nei confronti di un dirigente del comune di Quartu, ma i reali contorni della vicenda aspettiamo di conoscerli, aspettiamo di leggere che cosa scriveranno i giudici. I fatti sono questi e gli ascoltatori sono Agostino da Milano, Leonardo da provincia di Trapani, Roberto da Trento e molti altri all'800 24 00 24. Agostino. Sì, buongiorno. Buongiorno. No, comunque sono intervenuto perché da uno che ama l'Italia, anche se sono straniero che vive da 22 anni ormai in Italia, però io mi domando, se Cellino fosse presidente di una squadra di calcio di un altro paese, avrebbe avuto questi problemi? Io dico sicuramente di no, perché il problema dell'Italia, qui è un dubbio amletico, ma ha più torto chi vuole fare le cose o chi te li impedisce a farli. Sì. Il discorso è che la giustizia in Italia si occupa di quelli che vogliono fare le cose, non di quelli che te li impediscono a fare. La burocrazia italiana non te lo impedisce in ogni forma, in ogni metodo, una cosa del genere. Sì. E questo è un dubbio amletico che l'Italia prima o poi deve risolvere, perché sennò non va avanti. Ed è per questo che una storia come quella dello stadio del Cagliari diventa difficilmente raccontabile al di fuori dei nostri confini, no? Quindi... No, ma la stessa cosa è successa ieri, per dire, perché usciamo fuori dallo sport, anche con il discorso di Finmeccanica. Sì. Quando tutti sanno quanto è importante Finmeccanica per l'Italia, quanto Finmeccanica porta l'Italia nel mondo. E invece tutti sanno che in tutte le parti del mondo, compreso il mio paese da dove provengo, se tu devi fare una commessa in quel paese lì, se non paghi la tangente non lo vinci. E il discorso è le stesse identiche qui, in Italia, impedisce a chi vuole fare di fare le cose. Questa è una cosa assurda, che veramente è difficile. Ormai da 22 anni riesco anch'io a capire che funziona così, purtroppo. Com'è la mentalità, come funzionano le cose. Poi... se ci sono stati e ci sono stati certamente degli errori da entrambe le parti nella gestione di questa vicenda di Sarenas, è bene che vengano fuori, però non è possibile, non è accettabile, non è plausibile che questa vicenda ogni venerdì finisca nelle mani del prefetto, il quale decide se si gioca o non si gioca, e poi si gioca a Torino la partita col Milan, ricordate, no, noi non andiamo, dicono quelli del Cagliari, ricorso al TAR. Ma si può andare avanti così? Si può andare avanti così? Leonardo, provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io la chiamavo per il caso di Storius in prevalenza. Sì. Intanto perché sono sentito veramente dispiaciuto che a un ragazzo così giovane di successo possa succedere una cosa di questo tipo. Però nello sport ci sono molti casi di suicidi, no? Questa è una sorta di suicidio sportivo, di suicidio della carriera. Sì, no, questo è un suicidio, è un omicidio, è un ragazzo che probabilmente molto più fragile di quanto abbiamo pensato fosse. Non è caso di fare elegie nei confronti di uno che, campione o no, icona o no, che spara quattro colpi di pistola, poi vediamo a cosa porterà questo processo. Mettiamoci il luogo in cui viveva particolarmente pericoloso, mettiamoci il fatto che in quei luoghi le persone dormano con la pistola sotto il cuscino, però l'immagine che ho adesso e il mio pensiero adesso è quello di un ragazzo estremamente fragile, lo diceva prima anche Claudio Arrigoni, di un ragazzo che ha dimostrato in altri casi che non sono stati poi così sottolineati o sviscerati dalla stampa, ha dimostrato questa sua fragilità in altre occasioni. Ebbene, l'immagine che abbiamo adesso è questa. Poi domani con il processo per direttissima capiremo bene i contorni reali di questa vicenda. Però quando ho letto la prima ipotesi, la prima ricostruzione, non ci ho creduto nemmeno per un secondo, se volete la verità. Roberto da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. La risposta me l'ha già data lei. Cioè? Adesso, a parte su Pistorius, mi sembra che la puntata di oggi sia tutti convocati in tribunale. Tutti convocati in tribunale, dannazione, sì. Sì, c'è poco di sportivo, però davvero credo che non si debba fare nessun tipo di mistificazione su Pistorius. Cioè, cosa c'entra lo sport in tutto questo? È un atto criminale, come tale va trattato. Su Cellino poi ci sono tanti altri risvolti che in qualche modo hanno a che fare col mondo sportivo. Sì. Ma per favore, Pistorius, ma l'ha già detto lei, non parliamo di più, perché da sportivi siamo solo rammaricati e dispiaciuti. Sì. Ma è un criminale, è uno che fa una cosa di questo genere, punto e basta. Sì. La saluto io Roberto, la saluto io e la ringrazio. 800 24 00 24 è il numero verde. Poi ripeto, in casi come questi è necessario attendere gli sviluppi del procedimento, è necessario attendere, capire esattamente cosa diavolo possa essere successo in quella casa, però per il momento abbiamo un'accusa pesantissima che pende su questo ragazzo di 26 anni, ha ragione il nostro ascoltatore da Trento, che sia un'icona dello sport mondiale o un 26enne che commette un crimine, alla fine i contorni della vicenda non cambiano poi moltissimo. C'è Gianmarco Cardosa su Twitter che propone, e lo facciamo volentieri, un ennesimo saluto, perché questo giorno di San Valentino è stato molte volte maledetto, anche 9 anni fa, quando si spense Marco Pantani. Vabbè, adesso però io provo ad evitare di finire in depressione totale mentre attendo altre vostre chiamate. 800 24 00 24, facendo due chiacchiere con la Spagna e con Filippo Maria Ricci. Anche lì ci sarebbe da dire, con l'Operación Puerto che va avanti, anche lì un giorno in pretura, ma oggi per fortuna non si va in pretura. Filippo, almeno, no, per, almeno no, per quello. Buongiorno, oggi siamo finiti nel carcere di Pretoria, giornata. Dal carcere di Pretoria a quello di Buoncammino di Cagliari siamo un po' in prigione, meno male che almeno lì seduta aggiornata. Sì, no, infatti, sì, anche il mio articolo di oggi sulla Gazzetta su Manzano è abbastanza da piangere, insomma, vedendo quello che questi medici danno a questi ragazzi è surreale, dai, insomma, perché poi dopo, alla fine, io vedo questi ciclisti come delle vittime, insomma, ieri parlava Manzano è un ragazzo, lui sì. Dice, io so solo correre in bici, e io lì mi dico, dai, prenditi questo e ti trucchiamo il motore, ma cosa deve fare questo poveretto? Dice, mi sono fatto tutta la trafila nelle giovanili, lì... faccio un mazzo così e alla fine si prendeva le medicine col sangue dei cani e col sangue delle vacche, insomma, cioè, io non so, è che poi questi medici poi non pagano mai, a me sembra incredibile. Tra l'altro c'è stato un risvolto, è morto mi pare un test chiave, no? È morto improvvisamente di infarto, un test chiave che doveva dare. Quello era un perito, sì, è morto di infarto, insomma, quello è. Però sì, piuttosto si è suicidato un altro che era un altro imputato, si è suicidato 2 anni fa, nessuno dice niente. Insomma, è una situazione tragica, un mondo incredibile, insomma, io vedo alla fine i ciclisti o gli sportivi come delle vittime, insomma, perché un conto è Lance Armstrong che poi si riempie di milioni con un doping organizzato, ma questa gente qui ci sono di mezzo dei gregari che non guadagnavano niente, si facevano veramente appunto un mazzo tanto per portare su i loro campioni ed erano costretti a prendere delle medicine incredibili. Sto Manzano 2 volte rischia la vita, ma insomma, sì, dai, cioè, per favore, insomma, e lì il medico, io Fimiano lo vedo tutti i giorni, noi abbiamo una specie di zona mista, tanto bello, fa il fenomeno, fa il simpatico, lì con la sua cravatta, non i suoi occhi chiari, questo sguardo da pazzo, cioè è surreale, guarda. Surreale. Comunque, sì, non dobbiamo parlare di cose liete, insomma. Sì, io vorrei trascinare in un gorgo qui. Io vorrei perché oggi è un giorno molto strano e molto difficile. Come sta Mourinho? Ma Mourinho un po' meglio. L'altro ieri tremendo, era agitatissimo, era nervosissimo. Lui sa benissimo di giocarsi. Vabbè, la sua carriera a Real Madrid, che più o meno è in difficoltà, però in generale. Se dovesse andare male col Manchester, insomma, il suo prestigio ne uscirebbe abbastanza ritoccato. Sì. E ieri meglio, ieri più tranquillo. Alla fine il Madrid ha fatto una bella partita ieri sera. E il problema è che ho letto dichiarazioni di grande fiducia su calcio piazzato. Sì, ho letto dichiarazioni su calcio d'angolo. Dichiarazioni di grande fiducia di Mourinho e anche di Cristiano Ronaldo. Vinceremo a Old Trafford. Vediamo. Ma si può fare perché il Real Madrid, sì, il Manchester United ha una difesa abbastanza ridicola, secondo me. Cioè, in generale fa fatica a proteggersi. E sarà una partita con gol di nuovo. Io me ne aspettavo anche qualcuno in più e ci poteva stare perché è un salvataggio sulla linea, no? Pali, cose, parate. E all'Old Trafford sarà lo stesso, sai, il Real Madrid può passare anche con un 2-2 e ci sta, il Madrid secondo me sicuramente fa gol all'Old Trafford, forse probabilmente ne prenderà anche uno, magari partita lunga, sì, però sai, la fiducia è giusta, è corretto avere fiducia, insomma, non è spavalderia, non è fare gli sbruffoni. E poi Ronaldo per me è un grandissimo stato di forma. Ieri è stato bellissimo, no? Ferguson quando dice ah, me la son presa con Evra, perché insomma sul gol non è saltato, poi ho rivisto le immagini e mi sono sentito uno stupido. Dice, cioè, un salto così, cioè, non si vede mai, insomma, Ronaldo è una forma eccezionale. Poi sai, adesso manca il vero problema per me per il Real Madrid al ritorno è che prima cosa manca ancora parecchio, no? Mancano, insomma, 3 settimane quasi, e ci sarà tra 2 Clásicos in pochi giorni prima del ritorno a Manchester, uno in Coppa che teoricamente si gioca, cioè una cosa importante perché si gioca la finale di Coppa del Re, e l'altro in campionato che conta poco, però insomma sono 2 partite toste per loro. Sì. E arrivano 26 febbraio, 2 marzo e il 5 c'è la partita all'Old Trafford. Mica male. Senti Filippo, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi ti faccio sentire una battuta di Mourinho, un tuo commento e poi ti saluto. Mi sembra che la puntata di oggi sia tutti convocati in tribunale. tutti convocati. Quando lui giocava all'Inter aveva già la maglia in un ristorante, chissà, lui è felice, però per noi interisti non è un problema. Io come interista, per me nessuna sensazione. Zanetti con la maglia del Milan sarebbe una catastrofe, per Balotelli non è un problema. Il soggetto ovviamente Mario Balotelli a queste dichiarazioni di ieri di Mourinho. Pimpante, hai visto? L'ho sentito su di morale. Ma sì, c'ha ragione, dai. Mi sembra una buona risposta. Per noi interisti. È così, insomma, alla fine Mario ha ottenuto quello che voleva. Ora sì che potrà sentire l'inno del Milan a tutto volume. Sì. Senza rischiare di prendere un cartone da Materazzi. Bravo. E niente, c'ha ragione Mourinho, come quasi sempre accade, sua santità. Insomma, lì non sono d'accordo, però. Ma sto scherzando, Filippo, dai, fammi scherzare anche in una giornata come oggi, sì, oggi appunto in questa valle di lacrime, questa valle di lacrime, fammi dire una stupidaggine. Ne potremo parlare. Sì, ne potremo parlare e lo faremo. Ciao Filippo, grazie. Ciao. Filippo Maria Ricci, corrispondente per la Gazzetta dello Sport e per noi dalla difficile Spagna, difficile anche lì in questi momenti. Tanto dai mondiali di sci arriva nel Gigante questa notizia: Tessa Worley ha vinto, la francese Tessa Worley ha vinto il mondiale di Slalom nel Gigante femminile davanti a Tina Madsen, argento e terza medaglia personale, e alla Fenninger austriaca, non bene in Italia, con Manuela Mölg soltanto undicesima. Adesso vi faccio sentire, prima di chiudere con gli ascoltatori, di parlare di nuovo con gli ascoltatori, voci da Europa League: Mazzarri, Stramaccioni e Petkovic. Io Cavani credo che in questo momento, soprattutto giocando in casa, è la prima, sia giusto farlo giocare, al di là della volontà o meno del ragazzo. Rolando, la carriera e il suo percorso parla per lui. Se ha vinto l'Europa League vuol dire che un giocatore, per esempio, gioca e dà anche un qualcosa in più di esperienza alla squadra, ai giocatori che scenderanno insieme a lui in campo. Credo che l'Inter abbia integrato dei reparti e possiamo, secondo me, percorrere quella strada di lavoro che avevamo, tra virgolette, intrapreso solamente a tratti. La difesa a 4 mi permette di avere un centrocampista in più che supporta quello che è stato, secondo me, il nostro grande valore aggiunto in certi momenti della stagione, cioè 3 giocatori offensivi. Sicuramente un avversario molto quadrato, molto disciplinato, pericoloso in ripartenza, pericoloso su palle ferme, e come ho detto tante volte, avversario deve andare in secondo ruolo. È importante ritrovare la Lazio che abbiamo lasciato in ultima partita. Dunque, camminando verso l'Europa League per Napoli, Inter e Lazio. Adesso torno agli ascoltatori. 800 24 00 24 numero verde. Flavio, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Chiamavo per due cose. Adesso sono di Varese, sono un super tifoso della pallacanestro varese. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare la società e i giocatori per l'emozione la scorsa settimana al Forum, che insomma per me, che ho 52 anni, è stato come tornare ad altri tempi. Poi vedere a bordo campo Zanatta e compagnia, insomma è stato un po' un colpo al cuore. Sì, se poi non inizia di 0-18 quella finale, pure meglio, ecco. magari vediamo un'altra partita. Però, e quindi la seconda cosa, Carlo, volevo sapere da te, alla luce della stagione come è andata e di come hai visto le Final Four, a tuo giudizio quali possono essere le prospettive playoff per la squadra? Per Varese? Per Varese, sì. Ma io credo che Varese sia una storia vera, credo che sia comunque una squadra che arriverà lontano, non credo allo scudetto, perché L'abbiamo intuito anche nella finale, che pure è qualcosa di diverso, cioè una partita secca, ma su una serie lunga, su considerazioni che valgono a maggior ragione. Ci sono squadre più profonde di Varese, più profonde anche dal punto di vista qualitativo, e al Casino di Milano io ormai non credo più, però Siena, al di là dei problemi che sono reali e che sono legati all'incertezza per il futuro, che sono legati fatalmente alle ripercussioni che queste incertezze per il futuro avranno anche sulla stagione in corso, vedo Siena ancora grande favorita. Alberto, provincia di Milano. Buongiorno Genta. Buongiorno a te, dimmi. Tre considerazioni proprio velocissime. Vedere Giggs giocare a 40 anni 930 partite a quei livelli è un Highlander. Sì. Questo è vero. Poi Ronaldo sarà tanto un belloccio, ma ragazzi, ma è capace di giocare a pallone, cioè è un fenomeno. Questo al di là del belloccio non lo mette in discussione nessuno. No, non si scappa. E poi speriamo che magari gli italiani in Champions possano andare avanti, perché se le difese sono quelle del Manchester e del Real, tutto sommato si può anche giocare, si potrebbe anche provare, insomma. Milan compreso, Alberto? Io sono juventino, allora dico solo la Juve, dai. No, a me piacerebbe tutte e due. Certo. È evidente, preferirei tutte e due, però insomma, mi sembra che al di là dell'entusiasmo che Galliani prova a spendere non appena ne ha l'occasione in questi giorni, insomma, mi sembra abbastanza chiusa come pronostico almeno la doppia sfida con il Barça per un Milan che ovviamente non avrà a sua disposizione Mario Balotelli. Ma anche se avesse avuto, sarebbe cambiato davvero poco. Lazzaro Cagliari, buongiorno. Ah, buongiorno. Ascolti, io sono un tifosissimo del Cagliari. E mi dispiace molto quello che è successo. Ma però mi sa che qui in Sardegna ci stanno rubando tutto. Capito? La colpa è un po'. Mi perdoni anche, Lazzaro, che cosa vuol dire ci stanno rubando tutto? Ci stanno rubando tutto, non ci fanno, alla squadra la stanno portando a giro per l'Italia perché che non hanno campo. A me un campo sportivo, qui in Sardegna, a Cagliari, il Sant'Elia, era un gioiello dell'Europa, perché io l'ho conosciuto bene. Sono nato in quello stadio, sì. Capito? Sì. E allora, colpa del comune di Cagliari, Cellino voleva fare lo stadio vicino all'aeroporto. Non è vero che che quel terreno dello stadio non è vicino all'aeroporto, e non le hanno accettate. A me mi sa che è colpa del prefetto e dei giudici del tribunale. Guardi, io non so e non voglio distribuire le colpe, dico soltanto che non so se vi stanno rubando qualcosa, dico soltanto che credo sia legittimo per un qualunque presidente, sia legittima la volontà in questi tempi di costruirsi uno stadio che sia di proprietà della società, seguendo ovviamente i percorsi corretti. Evidentemente in Italia è molto ma molto più difficile farlo rispetto ad altri paesi, ed i motivi li misuriamo tutti i giorni, no? Vivendo in questo paese. Chiudiamo con Sergio da Milano, buongiorno. Salve Genta, giusto? Giusto, sì, sono io. Ogni tanto mi confondo con Garanzini, sono rimasto, faccio parte dei vecchi io. Va bene. Solo una considerazione, per quanto riguarda i ragazzi, il doping, di cosa si sta parlando prima. È inutile che continuiamo a dire i ragazzi sanno benissimo cosa devono fare. Mia figlia da ragazzina era un'ottima nuotatrice, promettente, a 13 anni mi hanno detto, anzi ho fatto io la domanda all'istruttore, ho detto cosa devo fare, la ragazza è promettente, senza medicinali non si va da nessuna parte. La colpa non è dei ragazzi, la società siamo noi genitori. A quel punto ho detto, tu Jessica, mi dispiace, hai finito di fare sport, lo fai a livello amatoriale, punto e basta. E questo vale per tutti i ragazzi di tutti gli sport, per cui di cosa parliamo? Sono i genitori che devono dire no, tu non lo fai, non è nessun altro. Sì, sono i genitori Sì, no, deve essere così nella maniera più assoluta, e poi c'è il passo successivo per cui magari si passa anche da in una caserma e si dicono due parole con nomi e cognomi di chi suggerisce queste cose, quindi certamente i genitori, che poi devono fare anche quell'altro salto dalle autorità. Visto che oggi siamo stati tutto il giorno più che in pretura, in carcere o quasi, va bene finirla così. Ci sentiamo domani alle 2. Franco Biantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Un bocca al lupo a Sanremo. Dopo non so, perché nel mondo dello spettacolo magari fanno mille scongiuri, non sti in bocca al lupo, sono un po' superstiziosi. Un in bocca al lupo sincero. Merda? Merda. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Io sognavo montagne verdi.